Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Le tecnologie di navigazione satellitare toccano ormai quasi tutti i settori della vita di ognuno di noi. La Commissione europea ha calcolato che entro il 2020 saranno operativi circa 3 miliardi di ricevitori di navigazione satellitare. Ciò significa che stiamo per entrare in un'era in cui questa tecnologia sarà sempre più parte integrante della nostra quotidianità. Dalle automobili ai telefonini, ai dispositivi wearable, fino ai sistemi bancari, alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia, all'agricoltura o ai sistemi di sicurezza basati sulla localizzazione. Si tratta infatti di un settore in continua espansione. Di questo si è parlato a Roma nel corso dell'International GNSS Advances Workshop, l'evento scientifico internazionale interamente dedicato al presente e al futuro della tecnologia di posizionamento satellitare, organizzato da SOGEI. Una volta effettuati i rilevamenti attraverso sistemi di posizionamento satellitari come il ben noto GPS o l'europeo Galileo, è possibile infatti usufruire delle raccolte di dati per molteplici utilizzi. Ma quali saranno i servizi a disposizione delle imprese e dei cittadini? Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come abbiamo ascoltato dalla scheda iniziale, le tecnologie di navigazione satellitare sono ormai entrate nella vita di tutti i giorni e sempre di più saranno decisive e importanti nel futuro delle imprese, a partire proprio da quelle che si occupano di trasporti e di mobilità. Se ne è parlato a Roma nell'ambito di un convegno organizzato da SOGEI e noi riprendiamo oggi le tematiche affrontate in questo incontro in compagnia dei nostri ospiti. Marco Lisi, responsabile sviluppo dei servizi Galileo per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ma in realtà grande conoscitore di questo sistema. Ingegner Lisi, a Roma si è parlato molto di EGNOS e di Galileo. Cominciamo con il chiarire di che cosa si tratta. I due sistemi EGNOS e Galileo costituiscono una grande infrastruttura in supporto al posizionamento, alla navigazione e anche alla distribuzione, molto importante, la distribuzione di un tempo molto preciso e stabile in tutto quanto il mondo, prima di tutto in Europa. Cosa è EGNOS? EGNOS è un sistema che lavora insieme al ben noto GPS, il Global Positioning System americano, ma ne migliora le prestazioni attraverso una rete di stazioni che sono sparse sul territorio europeo e attraverso dei segnali che vengono trasmessi da alcuni satelliti geostazionari che sono posizionati sull'Europa, permette agli utenti di sfruttare al meglio le possibilità dell'attuale sistema americano ed avere quindi delle prestazioni migliori. È un sistema che viene anche certificato, in qualche modo è garantito e quindi molto importante per le applicazioni professionali, per tutte quelle applicazioni dove è necessaria una prestazione molto certo, sicura e affidabile. Ecco, poi nell'immediato futuro invece c'è Galileo, che è questo sistema di navigazione tutto europeo che in qualche modo sostituirà, se possiamo utilizzare questo termine, il GPS americano. Lavorerà insieme a lui e anche gli americani sono molto contenti di avere un altro sistema. Essenzialmente Galileo è un sistema simile e interoperabile con il sistema americano. Arriviamo dopo gli americani, ma abbiamo anche introdotto delle innovazioni tecnologiche, per esempio degli orologi atomici a bordo dei satelliti che sono molto stabili, al momento i più stabili al mondo. Questo sistema renderà l'Europa completamente indipendente, ma come ho detto non è in competizione assolutamente con quello americano, anzi i due lavoreranno insieme. Certo. Gian Gherardo Calini, responsabile sviluppo mercato di applicazioni di GSA, che è l'agenzia europea responsabile proprio dello sviluppo di Galileo. Qual è al momento, ingegner Calini, la situazione degli utenti di questi sistemi? Allora, le faccio solo due esempi di mercati prioritari. Il settore dell'aviation, per quanto riguarda EGNOS, abbiamo già 300 procedure disponibili per far atterrare gli aerei in sicurezza in Europa. Per quanto riguarda invece l'altro settore fondamentale, il settore del road, trasporto stradale che da solo è circa la metà, costituisce la metà dei ricavi e degli utenti nel mondo per relativamente alla navigazione satellitare. Cito solo alcuni casi e risultati concreti. Il 37% delle strade d'Europa su cui si paga pedaggio utilizza tecnologie EGNOS ed è pronta già per Galileo. 1200 camion in Europa, in fase di crescita esponenziale peraltro, utilizzano EGNOS per fare il tracciamento delle merci. Ingegner Lisi, quali saranno invece i primi servizi che vedremo già da quest'anno, già da questo 2016, che riguarderanno Galileo ed EGNOS? Già nel 2016, con il numero di satelliti attualmente disponibili, saremo in grado, in particolare la GSA sarà responsabile di questa attività, di fornire dei primi servizi, chiamiamo appunto i servizi iniziali, per esempio applicazioni di assistenza in caso di emergenza a persone che sono in pericolo, per esempio su natanti, oppure la distribuzione di un tempo molto preciso ovunque nel mondo. E questo è un elemento fondamentale per la navigazione satellitare. Calini, prima l'ingegner Lisi parlava di un mercato che quindi in qualche modo esploderà da qui ai prossimi mesi per quanto riguarda i servizi di Galileo. Come si sta muovendo l'agenzia europea, quindi la GSA, per preparare in qualche modo il mercato? Allora, parliamo di 8 mercati target: il telefonini, settore stradale, aviazione, trasporto ferroviario, marittimo, agricoltura, il surveying, quindi diciamo la misurazione di campi nonché di catastro, e anche il settore importantissimo del timing, della sincronizzazione delle reti e delle varie infrastrutture elettriche, bancarie, eccetera. Tutti gli attori della catena del valore in ognuno dei mercati che ho detto sono invitati a cooperare con Galileo, e per essere concreti guardiamo al settore ferroviario, citato nell'esempio e nel convegno della SOGEI. Su 300 km in Sardegna sottoporremo a test la navigazione satellitare come una soluzione per gestire la sicurezza e il segnalamento nelle linee a bassa densità, quindi con pochi treni che passano ogni ora, e abbiamo come attore fondamentale un attore italiano, Ansaldo. Sappiamo come l'Europa è leader nel mondo nel segnalamento. Nel settore marittimo anche abbiamo vari progetti, tra cui in Italia la Maddalena abbiamo messo un sistema per limitare l'accesso alle aree marine protette, e chiaramente nella telefonia mobile stiamo lavorando moltissimo con tutti gli sviluppatori di nuove applicazioni e gli operatori Telecom, e soprattutto stiamo lavorando con la Commissione Europea alla telefonata di emergenza, la famosa E112 o 112, e quindi tutto questo insieme di cose in corso siamo sicuri prepareranno il mercato. Un indicatore: il 38% dei ricevitori, quindi dei device che sono disponibili nel mondo, già oggi hanno Galileo. Il mercato vuole Galileo, il mercato aspetta Galileo, evidentemente dietro c'è del lavoro fatto. Lisi, siamo in chiusura, abbiamo ancora pochi secondi per parlare invece del progetto eCall. eCall è un sistema di emergenza, è diventato una regulation europea, cioè una legge europea attiva già dal 2018. Nel 2018 tutti quanti i veicoli da costruire e in circolazione dovranno essere equipaggiati con un apparato all'interno del veicolo, il quale in caso di incidente riesce a trasmettere automaticamente al numero unico europeo di emergenza 112, che adesso è stato adottato recentemente anche in Italia, informazioni in modo automatico, quindi anche se il guidatore avesse subito delle gravi lesioni, in modo automatico fornisce tutte quante le informazioni utili affinché i soccorsi di emergenza possano arrivare prontamente e precisamente nel luogo dell'incidente. È stato stimato che verranno salvate almeno 2.500 vite in Europa ogni anno, e inoltre ci sarà una fortissima riduzione di tutti quanti i costi dovuti all'aumento del traffico, alle lesioni che vengono riportate durante nel corso degli incidenti, e questo risparmio è dell'ordine dei 20 miliardi di euro ogni anno. Quindi un sistema molto utile per tutti i cittadini,